Grazie ragazzi. Sapete, hanno scritto loro questo brano. Sì, volete fare un altro applauso? Ci sta. E io li ringrazio perché non c'è modo migliore per aprire quella che può essere una riflessione che insieme possiamo fare questa sera e che poi continueremo a fare anche domenica prossima. Quindi già anticipatamente vi invito a venire all'incontro che faremo domenica prossima alle 20 per continuare a riflettere sul Natale, naturalmente, perché questo è il periodo. Ed è un periodo nel quale possiamo essere presi da tante cose, dai regali da fare, da ricevere, dalle cene, dai saggi. Quanti genitori in mezzo a noi hanno quella faccia stanca perché passano da un saggio all'altro dei loro figli. E ci sono tanti eventi e tante cose che si vivono in queste festività. Però il Natale naturalmente non può fare a meno che ricordarci la nascita di Gesù. E questo è un bene. È un bene che ancora oggi noi possiamo ricordare in quella che può come non può essere la data esatta della sua nascita. Non so quanti sanno esattamente quando sia nato Gesù, ma nessun documento ce lo riporta con esattezza. Però ricordare la sua nascita non può farci che bene. E la sua nascita del miracoloso, la sua nascita è qualcosa di straordinario. La sua nascita è stata preanticipata, preannunciata da profezie scritte in libri che sono scientificamente datati precedenti alla nascita stessa di Gesù. Ci sono più di 350 profezie che parlano della venuta del Cristo e che danno dettagli su come questo Gesù sarebbe nato, da chi sarebbe nato, quali sarebbero stati i suoi atti, le sue opere, le sue parole. Gesù è venuto e la sua nascita è incredibile, è meravigliosa, perché ci parla delle caratteristiche stesse di Dio. Un Dio che è umile, un Dio che è pieno di amore. Questo immenso Dio si è fatto immensamente piccolo e vulnerabile per raggiungere un popolo ribelle che si è fatto immensamente più grande di Dio stesso. E nel farsi piccolo e vulnerabile ha trasmesso il suo messaggio a tutta l'umanità, un messaggio di amore, di accessibilità. E noi abbiamo un Cristo che è accessibile. Però vorrei che noi comprendessimo questo. Il Natale e ricordare la nascita di Gesù si arricchisce di significato solo nel momento in cui noi comprendiamo e abbiamo rivelazione della vita di questo Gesù che è nato. C'è un oratore del secolo scorso, Billy Graham, che ha detto questa frase: Gesù non è venuto per nascere. Gesù di fatto è venuto per morire. E non ha tutti i torti, perché se voi andate a leggere gli Evangeli, su quattro Evangeli che con molta chiarezza ci raccontano la storia di Gesù e tutti i suoi dettagli e le sue parole, le sue opere, tutti e quattro riportano la sua morte, la sua resurrezione, le parole più importanti che lui ha dato, gli insegnamenti di vita che noi possiamo far nostre oggi. Solo due di questi Vangeli parlano della nascita di Gesù. Ora dico questo non per sminuire la nascita di Gesù, ma ancor di più farci capire quanto è importante per noi in queste festività e in questo periodo dell'anno ricordare non solo che Gesù è nato, ma quello che lui ha fatto e qual è stata la sua vita, le sue opere, le sue parole, la sua morte, la sua resurrezione. Perché questo cambia la nostra vita. Gesù di fatto ha cambiato la storia dell'umanità. Per sempre lui ha cambiato la storia del mondo intero. E questo vale per te che ci credi e vale anche per chiunque non dovesse credere in questa verità. C'è un autore del fine 800, il cui nome è H.G. Wells. E lui ha scritto: sono uno storico, non un credente. ma in qualità di storico devo confessare che questo squattrinato predicatore di Nazareth è inequivocabilmente il vero centro della storia. Gesù è senza dubbio la figura più dominante di tutta la storia. Un non credente, uno scrittore, uno storico, e come lui tanti altri. Nel momento in cui studi la storia di Gesù, non puoi fare a meno che renderti conto che il suo cambiare la storia dell'umanità non è stato semplicemente un cambiare la data del nostro calendario, ma lui ha significato il cambio dell'intero mondo nel quale noi viviamo. Ora però veniamo a noi. Noi siamo qui, siamo seduti, mi siedo anch'io con voi. E di fatto la verità è che anche noi abbiamo una storia. Io, tu, noi tutti abbiamo una storia. Abbiamo un nostro passato, abbiamo un nostro presente, c'è davanti un nostro futuro. Abbiamo dei bagagli, più o meno belli, abbiamo successi e insuccessi, abbiamo rammarici e abbiamo gioie. Tutti noi qui seduti abbiamo una storia. E la nostra storia è importante per noi. È un po' come i ragazzi recitavano, tu forse questa sera ti ritrovi qui seduto a riflettere magari su tante altre cose, sul mutuo da pagare, sulla bolletta prossima che sta arrivando, sui tuoi problemi, le tue circostanze, la situazione della tua famiglia, la situazione della tua salute, i dubbi che riguardano il tuo presente e futuro. Tu hai una storia, io ho una storia. E sapete, quando ci confrontiamo davanti alla storia di un grande uomo, quale Gesù, come ogni altro uomo che fa grandi opere, più grandi sono queste opere, più noi sentiamo questa storia distante dalla nostra. Magari guardiamo Rai Storia o Focus, non lo so se vi piacciono questi canali, e ti confronti con la vita di questi uomini e donne di storia che hanno cambiato la storia, che hanno fatto cose eccezionali. Tu le guardi e dici: non è la mia storia però. Seduto sulla tua poltrona, sul tuo divano, o seduto qui questa sera, dici: io ho una storia diversa. E forse quello che meglio potremmo fare questa sera è chiederci: ma questa storia, la storia di Gesù, può di fatto cambiare la nostra di storia? Perché di fatto questo è quello che conta. Questa sera, in ultima analisi, che Gesù abbia fatto quello che ha fatto e che abbia detto quello che ha detto, può non cambiare affatto la tua storia. Ma se è vero, come è vero, quello che è riportato nei Vangeli, di fatto c'è una collisione a un certo punto che è possibile, una collisione fra la storia di Cristo, la storia di Gesù e la tua e la mia storia. E nel momento in cui queste due storie si incontrano, la tua storia può cambiare per sempre. C'è un prima di Cristo e c'è un dopo Cristo, e questo può essere vero per la tua vita come per la mia vita. Noi comprendiamo che la storia di Gesù ha dello straordinario, perché già l'angelo che appare a questi pastori e li terrorizza, chi non sarebbe terrorizzato dall'apparizione di un angelo? Quest'angelo che appare ai pastori dice queste parole. Le troviamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 2, dal versetto 10. E l'angelo dice a questi pastori: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia. La nascita di Gesù è una grande notizia, è una notizia meravigliosa, è una notizia di gioia. E poi l'angelo continua dicendo: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Gesù cresce, non rimane bambino, diventa adulto e si ritrova una notte con un uomo, un religioso, che è talmente curioso, scomoda Gesù di notte, piena notte, per una conversazione, faccia a faccia con lui. I due le immaginano seduti a conversare. E Gesù a un certo punto, parlando con Nicodemo, dice queste parole, dimostrando che quello che l'angelo aveva anticipato nell'annuncio ai pastori era esattamente il motivo della sua vita. E Gesù mostra a questo uomo religioso che ha fame, che vuole risposte, vuole sapere come avere la vita eterna, come avere certezza della propria salvezza. Gesù si rivolge a quest'uomo e dice, sai Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma affinché il mondo, Nicodemo, affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Gesù è venuto per una missione. Gesù è venuto per uno scopo. E sapete qual è la cosa più bella della storia di Gesù? Che Gesù è venuto non per amore della sua storia, ma per amore della storia di Nicodemo. Gesù non è venuto per amore di essere un uomo famoso, che lasciava traccia nella storia e nell'umanità. Gli è costato tanto vivere la vita che ha vissuto, ma se l'ha fatto è perché lui ha amato ciascuno di noi e lui desidera che la mia storia, che la tua storia possa cambiare. Questa sera c'è speranza per te, perché la tua storia può cambiare. Io voglio leggervi ancora altre due citazioni di Gesù, perché vorrei che noi comprendessimo che le dichiarazioni di quest'uomo di nome Gesù hanno dell'assurdo. Gesù a un certo punto in Giovanni al capitolo 6, versetto 35, potete andarlo a leggere, dice «Io sono il pane della vita. Chiunque viene a me non avrà mai più fame. Chiunque crede in me non avrà mai più sete». Un'altra citazione di Gesù, Matteo 11, versetto 28, dice venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete, ascoltate la promessa di Gesù, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Ragazzi, amici, fratelli, sorelle, che tu sia credente o non credente questa sera, queste affermazioni, le affermazioni di Dio, di Gesù, riportate nei Vangeli, possono portarci a solo due possibili conclusioni, solo due. Tu puoi scegliere da che parte stare. Una è che questo Gesù è stato un uomo che ha fatto delle dichiarazioni che, per quanto assurde esse fossero, lui può essere solo condannato come un bugiardo, come un pazzo scellerato che va dicendo cose che non possono cambiare niente in nessuno. E questa posizione è plausibile. Tu puoi credere questo, questa sera. Dire, una persona che afferma di essere il pane della vita, una persona che dice che se noi andiamo da Lui e crediamo in Lui, Lui ci darà una tale pienezza di vita e una tale condizione di sazietà da non avere più fame, più sete, da sentirci appagati completamente. Beh, una persona che afferma una cosa del genere può solo essere un pazzo. Nessun uomo può affermare una cosa del genere. Oppure, ipotesi numero due, questo Gesù è Dio. Il suo nome è Emanuele, che significa letteralmente Dio è con noi. Dio si è fatto uomo, è sceso su questa terra ed è la risposta ed è la soluzione per l'umanità intera. Io non so da che parte stai, dove ti trovi. Io credo in questo. Lui ha cambiato la mia vita e l'ha cambiata per sempre. Io so che ho vita eterna per la salvezza che c'è in Cristo Gesù, perché so che Lui ha portato tutti i miei peccati, passati, presenti e futuri, su quella croce, e su quella croce ha pagato il prezzo che condannava me a un'eternità di disperazione. L'abbiamo letto insieme. Gesù ha detto che Dio ha tanto amato il mondo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù parla dell'eternità. Anche su questo possiamo avere pareri contrari e posizioni diverse. Puoi credere che la tua vita finisce qui. Oppure puoi credere che effettivamente la persona che aveva più autorità ed era la più idonea a parlare dell'eternità perché veniva dall'eternità, perché è tornato all'eternità, perché non è solo morto ma è risorto e ha visto quello che c'era dopo la morte, ti dice oggi c'è una vita eterna e tu puoi avere l'accesso a una vita eterna di gioia, pace, completezza, alla presenza del Padre per l'eternità, perché il mio piano non si ferma a un mondo che è corrotto e distrutto, ma c'è un piano, un secondo piano, un piano B per l'umanità intera. Gesù è venuto per darci vita e vita eterna. Gesù è venuto per darci una soddisfazione che riempie quel vuoto che tutti noi proviamo seduti su quelle sedie. Gesù è venuto per appagare ogni nostra mancanza. Gesù è venuto per darti quella gioia piena che tu stai cercando in mille modi e in mille cose diverse nella tua vita. Gesù è venuto per cambiare la tua storia, per cambiare la mia storia. La storia di Gesù ha dell'incredibile ed è meravigliosa perché Lui ha vissuto in modo tale che tu potessi vivere una vita diversa. Lui è morto in modo tale che tu potessi avere una vita. Lui ha pagato in modo tale che tu potessi avere libertà. Gesù è questo. E noi possiamo scegliere e lo possiamo fare in una maniera molto concreta, molto pratica. Sapete, come Chiesa non abbiamo la presunzione di credere che noi siamo la Chiesa che ha le risposte. Come Chiesa siamo solo un gruppo di persone che crede in un'unica soluzione e in un unico risolutore dei nostri peccati e delle nostre sofferenze, il cui nome è Cristo Gesù. E come Chiesa esistiamo solo per questo scopo, per condividere quella che è la nostra storia cambiata da colui che ha dato la sua vita per noi, Gesù Cristo. Questa sera puoi scegliere. Non stiamo parlando di religione, non stiamo parlando di filosofie, non stiamo parlando di edifici, stiamo parlando di vita e stiamo parlando di Cristo Gesù e della salvezza che Lui ci offre. Non so se avete notato le parole che Gesù usa. Lui dice, chi crede in me? E poi dice, chi viene a me? E poi dice, chi lascia che io dimori in lui? Chi mi rende partecipe della sua vita? E ci sono tante citazioni e sono tanti inviti che Gesù fa nei Vangeli rivolti a tutti noi. A noi è lasciata la possibilità di decidere. Voglio credere. Voglio provarci, voglio andare da Lui. Sei stanco, sei aggravato. Riprendo le parole di Gesù. Sei stanco, sei aggravato questa sera. Vuoi trovare pace per l'anima tua. E l'anima è quella parte interiore in te che così tanto a volte ribolle dentro di noi con tanti sentimenti difficili, pesanti. Vuoi pace, vuoi riposo. La risposta è una. Gesù Cristo, Emanuele, Dio con noi. Voglio chiedere a tutti noi di alzarci in piedi in questo momento. Gesù ha fatto un'altra cosa. Nella sua storia ha insegnato ai suoi discepoli a pregare. E la preghiera è la cosa più semplice che si possa fare. E lui insegna che è dare voce con parole a quello che vivi nel tuo cuore. E quello che vorrei invitare tutti noi a fare questa sera è una preghiera a Gesù. Se crediamo che Lui è risorto, se crediamo che Lui è vero, se noi crediamo che Lui è vivo e che le sue parole sono tanto vive quanto Lui questa sera, allora a prescindere da quello che è la tua storia, da quella che è la tua religione, quella che è la tua fede, puoi rivolgere personalmente una preghiera, delle parole tue a quel Gesù che ci ascolta e così tanto ci ama, che vuole sentire te, che ti avvicini a Lui. Vuoi fare questo? Io voglio farlo per l'ennesima volta questa sera. Voglio aprire il mio cuore a quel Gesù che mi ama. E voglio dire a quel Gesù che mi ama, io ho bisogno di salvezza. Oh, quanto abbiamo bisogno di salvezza in questa terra, in questi tempi. Io ho bisogno di rinnovamento e cambiamento e so che tu sei la risposta. Voglio aiutarti in questa preghiera. Voglio darti modo di ripetere con me una preghiera, forse la cosa più facile che possiamo fare in questo luogo per connetterci a Dio e usare le giuste parole per invitarlo nel nostro cuore. Oddio, non che le mie parole sono quelle giuste. Qualsiasi preghiera è giusta. Però voglio invitarti a fare questa prima preghiera per invitare Gesù nel tuo cuore e per fare tu una scelta ad avvicinarti a Lui. Se fai questo, allora sì, questo Natale è un Natale come non l'hai mai visto, perché inviti il festeggiato nella tua vita e io ti assicuro che Lui cambierà per sempre la tua storia. Vogliamo chiudere i nostri occhi, abbassare il nostro capo. E se vuoi puoi ripetere queste parole con me. Invito tutta la Chiesa, tutti i credenti che già pregano a ripeterle con me. E per te che per la prima volta magari fai questa preghiera, non essere timido e non pensare a chi ti sta vicino, a chi ti sta a fianco o a me che sono qui davanti a te. Pensa a quel Gesù che è vivo e che questa sera ha permesso che tu venissi qui proprio per una specifica ragione, per cambiare la tua storia. Vogliamo ripetere insieme. Signore Gesù, noi crediamo che tu sei nato. Noi crediamo che tu hai vissuto, che tu sei morto e poi risorto. Noi crediamo che tu sei il Salvatore annunciato e ti chiediamo di salvare le nostre vite. Io, Gesù, ti invito nel mio cuore. Io, Gesù, ti invito nella mia storia. Prendimi dal punto in cui mi trovo e portami dovunque tu hai in mente di portarmi. Perdona i miei peccati. Dammi un cuore puro. Dammi una mente lavata. Dammi il riposo che tu prometti. Dammi la gioia che tu prometti. Ti chiedo, Gesù, dammi la vita eterna. Amen. Amen. Io, sì, possiamo fare un applauso. Sono certo che in questo momento tanti cuori sono lì che battono. Adesso stiamo per cantare una canzone, ecco perché i ragazzi si stanno preparando. Però io voglio dire qualcosa ancora per te. Noi abbiamo la gioia di poter aiutare ogni persona che vuole conoscere di più di Gesù. Questo è l'unico nostro interesse. Noi vogliamo aiutare le persone a conoscere la sua vera storia, i Vangeli, e a guidare ogni singola persona a fare le proprie conclusioni su questo Gesù, a portare Gesù nella propria vita e nella propria quotidianità. Se è quello che desideri, se stasera hai fatto per la prima volta questa preghiera, noi abbiamo la gioia di poterti dare un regalo, perché siamo una chiesa generosa, vero? Almeno una persona è d'accordo con me. Siamo una chiesa generosa? Ah, un centinaio ora. Siamo una chiesa generosa o non siamo una chiesa generosa? Qui dentro hai un regalo. È un regalo per te. Se ti ha toccato in una qualche maniera questo messaggio, noi abbiamo il piacere semplicemente di darti questo regalo e salutarti. Però se oltre questo, oltre ricevere il regalo, vuoi parlare, vogliamo conoscerci, hai delle domande, hai delle perplessità, siamo pronti a rispondere a qualsiasi cosa e non abbiamo le risposte per tutto. Siamo anche noi in un percorso. Ma magari possiamo darti qualche indicazione della vita che è cambiata, la nostra storia che è cambiata, che può aiutare la tua vita a cambiare. Quindi se hai pregato per la prima volta la preghiera, vuoi ricevere questo regalo, io voglio chiederti di, quando concludiamo il programma, di riversarti nell'atrio d'ingresso, esattamente da dove sei entrato, lì dove hai visto che ci sono divanetti, ci saranno delle persone che avranno gioia nel darti questo regalo. C'è un team, giusto? O sbaglio? C'è un team, ecco, li vedete con i regali in mano, potete... notare che sono in tutte le parti della sala, loro hanno non un solo regalo, giusto Stefania? Più di uno, due, bene o male puoi dare due regali. Quindi non andate a Stefania, ne ha troppi pochi di pacchi. Enza, quanti ne hai tu? Tanti, tanti, andate ad Enza, Enza ha tanti regali, quindi rivolgetevi a lei. Nell'atrio d'ingresso, vogliamo fermarci, stare ancora insieme, conoscerci. Se c'è qualche castagna, abbiamo ancora castagne? Ci sono castagne ancora, allora possiamo mangiare le castagne insieme, stare insieme. Siamo famiglia, siamo la famiglia di Dio e vi vogliamo tanto bene, siamo così contenti che siete venuti questa sera. Per tutti gli altri, coloro che già non mi sopportano più e non vogliono più sentirmi parlare, potete uscire da queste porte, sono le porte d'emergenza e quindi forse la tua sarà un'emergenza, quella di uscire quanto più prima possibile. Però no, a parte gli scherzi, davvero, se hai intenzione di avere questo regalo, allora puoi affacciarti all'atrio d'ingresso, altrimenti possiamo uscire da queste porte quando finirà il programma e ancora intrattenerci nella stradina. E il Signore ci benedica e ci dia una vita cambiata e rinnovata in Lui, Emanuele.